Buongiorno e buona domenica a tutti, benvenuti a questa nuova lezione di jazz. Oggi ci dedichiamo a quel capitolo delle lezioni di jazz che chiamiamo Guida all'ascolto. Proveremo oggi a ragionare su come funziona il linguaggio dell'improvvisazione e come questo linguaggio si è trasformato tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60. Fino a portare a quella corrente che si chiama free jazz. Oggi noi non parleremo in realtà del free jazz, ma cercheremo di capire che ci sono, nella trasformazione del linguaggio improvvisativo fra la fine degli anni 50 e i primi anni 60, ci sono delle regole. Proveremo come entrare nella testa del jazzista. In apparenza sarà una lezione solo in apparenza più tecnica, ma il mio obiettivo è quello di cercare di aiutarvi a comprendere in profondità i processi anche mentali e formali che un musicista segue quando improvvisa e come questi processi si sono trasformati appunto fra la fine degli anni 50 e i primi anni 60. Per farlo utilizzerò anche qualche termine tecnico, ma non vi dovete spaventare, a parte che la porta è lì, quindi chi vuole può comodamente andarsene, però a parte gli scherzi cercherò di essere il più semplice e chiaro possibile. Sono concetti che tutti possono comprendere, non pretendo poi che uscendo da qui magari siate in grado di riapplicare esattamente quello che abbiamo raccontato qui, ma provare a scendere per un attimo con molto relax dentro i meccanismi profondi della musica ci può aiutare a comprenderne anche la sua portata comunicativa. Ora, il jazz è una musica che non è esclusivamente basata sull'improvvisazione. C'è tanto jazz che è composto, che è strutturato, spesso che non contiene neanche una nota di improvvisazione, ma non c'è dubbio che l'improvvisazione è la sua caratteristica saliente, la cosa che lo distingue forse da un punto di vista quantomeno quantitativo, lo distingue più dalle altre musiche. E l'improvvisazione si può strutturare, gestire, elaborare in modi molto diversi. Tra l'altro tutte le culture del mondo utilizzano l'improvvisazione, che poi è la forma più ovvia, più naturale di produzione della musica. Tutte le culture, dicevo, nelle diverse epoche, in diverse parti del mondo, gestiscono il fare musica in modo estemporaneo, in modo diverso, seguendo regole diverse. Nel jazz c'è una tecnica che è senza dubbio quella più usata, che poi tra l'altro è la stessa che si ritrova per esempio nel rock o in altre musiche popolari, anche quando quello che stiamo per spiegare vale anche quando, nella musica leggera c'è un cantante che canta la sua canzone, poi c'è magari uno strumentista che si alza, un chitarrista, un sassofonista, fa un breve assolo, magari improvvisato o preparato, e quel breve assolo segue determinate regole. Ecco, queste regole sono quelle che, un primo insieme di queste regole, sono quelle che vorrei spiegarvi adesso. In realtà sono piuttosto semplici da spiegare. Allora, c'è un ritornello che in inglese si chiama chorus, perché il termine è un termine ottocentesco, viene dal fatto che nelle canzoni americane dell'Ottocento il ritornello, la parte che si ripete della canzone, quella che poi ci entra in testa, veniva cantata in coro, quindi userò qualche volta il termine chorus per indicare semplicemente il ritornello. E il ritornello è lo stesso ritornello che conoscete delle canzoni leggere. Questo ritornello di solito ha una struttura ben precisa, ha vari tipi di strutture, ma nella canzone americana, che poi è la base del repertorio jazz, questa struttura si chiama AABA. Ecco, che cosa vuol dire? Non spaventatevi, è un concetto semplicissimo. Vuol dire che c'è una prima idea, che io chiamo A, per usare una lettera qualsiasi. Questa idea si ripete, e quindi di nuovo la chiamo A. Poi c'è un'idea a contrasto, quindi la chiamo B, e poi c'è la ripresa dell'idea iniziale, e quindi la chiamo di nuovo A. A, A, B, A è la forma più utilizzata nelle canzoni. In realtà ce n'è anche un'altra che si chiama per esempio ABAC o ABAB. Il concetto è quello, c'ho un'idea, o la ripeto o ci metto un'altra idea a contrasto. Ovviamente ognuna di queste idee ha una sua durata e questa durata si conta in battute. Per esempio, 8 battute, che vuol dire? Che io conto 4, che è, diciamo, la misura tipica della musica occidentale, 8 volte. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sono le stanghette che vedete, 8 volte. Questa è una A. La melodia, gli accordi, l'accompagnamento, tutto il contenuto musicale sta dentro queste 8 scatolette. Quando io faccio la seconda A, ovviamente queste 8 scatolette si ripetono uguali. Poi arriva la parte a contrasto e poi c'è la ripetizione della prima idea. Ora, quando suonate, che ne so, The Man I Love di George Gershwin, una canzone che conoscete tutti. Ecco, The Man I Love ha una struttura A-A-B-A. È la A, che viene ripetuta più volte, poi c'è la B. È una settimana che provo questa cosa per non cantarla stonato. Poi c'è, e mi è venuta discretamente, poi, grazie, l'applauso. Come vedete, tento anche delle carriere alternative nel caso queste lezioni dovessero andare male. Una è quella di comico, l'avrete capito, non di cantante. La A e poi c'è la A che si ripete. Quindi questo è il contenuto musicale. Attenzione però, quando un improvvisatore improvvisa le sue melodie, quelle che si inventa lui sul momento, per esempio un solista di tromba, ripete lo stesso percorso, cioè usa gli accordi, il ritmo, la melodia, tutti gli elementi del contenuto musicale come stimolo per inventarsi le sue melodie, ma quello che a noi oggi interessa è capire che questo inventarsi le melodie avviene e dentro esattamente le stesse, chiamiamole così, scatolette, cioè le battute del pezzo. Quindi segue la stessa struttura. Poi un Sonny Rollins può anche improvvisare per 20 minuti di seguito inventandosi idee continuamente nuove. Quei 20 minuti sono una costante, continua ripetizione di quella struttura, se il pezzo è basato su quella struttura. Vorrei con voi provare a seguire insieme un pezzo di Clifford Brown e Max Roach che si presta bene a questo esempio per cercare di capire come funziona il jazz, per esempio, della metà degli anni 50, che è poi il periodo che a noi ci interessa. George's Dilemma, Max Roach alla batteria, Clifford Brown, il famoso quintetto di Brown e Roach. C'è una parte introduttiva che non contiamo, poi proverò a contare con voi i segmenti A-A-B-A, sia del tema, sia dell'assolo di Clifford Brown, che poi sfumiamo. Questa è la A. A. Seconda scatoletta. 1, 2, 3, 4. Ora arriva la B. Eccola. Ora arriva l'ultima A. Uguale. Ora l'assolo di Clifford Brown si basa sulla stessa struttura. Da capo, A. A. Sette. Otto. B. Ultima. Da capo. Seconda A. Occhio. B. Ultima. Prima. E a questo punto entra Harold Land che fa il suo assolo seguendo esattamente la stessa routine. Qual è la caratteristica? È chiaro a tutti? Spero che... È abbastanza semplice il principio, però ovviamente scegliere le note, gestire il ritmo, dialogare con gli altri strumenti, sapere quali note possono essere suonate, altre no, inventarsi le proprie melodie è un fattore molto più complesso, ma qui non ci riguarda, ci interessa la forma. Questa forma, cosiddetta a chorus, è senza dubbio ancora oggi la struttura più utilizzata in assoluto nel jazz, il che non garantisce per forza risultati buoni, devi essere un grande improvvisatore, però da un punto di vista quantitativo della prassi è la forma dominante, anche quella che ti insegnano quando vai a studiare al conservatorio, ti insegnano a suonare su questo tipo di principio. Ora, questo tipo di principio ha molti vantaggi e qualche svantaggio. Uno dei vantaggi è che tu sai, hai sempre dei riferimenti, sei su un binario, come sono i Rollins, puoi improvvisare per 20-25 minuti, stai dentro quel binario, tutti i musicisti stanno dentro quel binario e quindi non ci si perde mai. Al tempo stesso la scatola, questo è un altro dei vantaggi, offre lo stimolo per, come dire, i limiti della scatola offrono uno stimolo a superare quei limiti. Per esempio, adesso non abbiamo il tempo, ma se vi andate a risentire il disco scoprirete per esempio che Clifford Brown fa delle frasi dalla fine della B all'inizio dell'ultima A che scavalcano la cesura, cioè lui comincia a suonare dalla fine della B, fa tutta una lunga frase che cade a metà dell'ultima A. Come dire, io sto dentro una scatola, ma questo fraseggio supera i limiti della scatola. Però dei limiti ci sono. E questi limiti sono nel fatto che la struttura è fissa, nel fatto che è simmetrica, sono 8 battute, 8, 8, e soprattutto nel fatto che una volta che cominci a suonare non puoi più modificarla. Quindi diventa una specie di gabbia. Però siccome le idee melodiche nascono dal contenuto di questa gabbia, i musicisti di jazz per decenni non se ne sono preoccupati. Hanno trovato stimolo, pensate per esempio a Charlie Parker, a cui dedicheremo per inciso la prossima lezione di jazz. Charlie Parker ha trovato nuovi modi di suonare dentro questa struttura senza aver bisogno di alterarla. Il contenuto musicale era più importante della rigidità della gabbia, però intorno alla seconda metà degli anni 50 i musicisti di jazz hanno cominciato a sentire questa gabbia come un limite, come qualcosa che ti impedisce di andare oltre. Uno dei primi musicisti ad aver percepito questo limite è stato Charles Mingus. Una delle grandi innovazioni di Mingus è stata quella di trovare una soluzione a questo problema della gabbia, del chorus, del ritornello. E qual è questa soluzione? Una prima, ne ha trovate tante per la verità, ma la prima che ha trovato storicamente è quella di dire: ma facciamo che uno dei segmenti duri un tempo a piacere. Vi spiego meglio. Questa innovazione viene in particolare da un disco celebre di Charles Mingus, che è Pithecanthropus Erectus. Che cosa succede in Pithecanthropus Erectus? Allora, la cosa principale da sapere è che la struttura è ABAB, quindi è un po' più semplice, no? Di quella AABA. Ci sono solo due segmenti che si ripetono due volte. Il tutto poi reiterato tante volte. Il problema qual è? Che però, mentre la sezione A è una scatola, come abbiamo visto, tra l'altro non di 8 scatoline, di 8 battute, ma di 16. È un po' più lunga, questo non ci interessa, però è più lunga, ma comunque è una scatola. La B, invece, dura a piacere. Voi direte, come a piacere? Sì, a piacere. Ci sono due accordi che si ripetono e si possono suonare tante volte quanto ti pare. Cioè, provando a... Quindi la A dura 1, 2, 3, 4 contando 16 volte. Poi c'è la B, è 1, 2, 3, 4 per x volte a piacere. Poi si rifà la A per 16 volte e infine di nuovo la B per x volte a piacere. Fermi tutti, direte, ma io come faccio a suonare la B per x volte e poi caschiamo tutti insieme sulla A? Si usano dei segnali. Noi adesso vedremo un esempio in cui il segnale non lo percepiamo, perché probabilmente era un segnale visivo. Però vedremo più avanti anche dei segnali sonori. Allora, partiamo dal segnale visivo. Qui non lo vediamo. Probabilmente Mingus o qualcuno dei musicisti, questo è un quintetto, al momento in cui si sono stufati di suonare la B per X volte, perché hanno raggiunto l'obiettivo sonoro che si stavano proponendo tutti insieme, qualcuno avrà fatto un gesto e al gesto si cade tutti sulla seconda A. Va bene? In Mingus, tra l'altro, usare B per x volte, sia nella prima sia nella seconda parte, ha un ulteriore elemento, è che durante l'esposizione del tema, quei due segmenti aperti, che tecnicamente si chiamano vamp, come è scritto lì sopra, usare il vamp, cioè due accordi che si ripetono a piacimento, gli consente anche di introdurre una cosa che nel jazz si era dimenticata fin dai tempi di New Orleans, la polifonia, tutti suonano insieme. Mentre nella A c'è un unisono in cui tutti suonano ora piano, ora forte, ma suonano tutti perfettamente la stessa melodia, nella B invece anarchia, caos, polifonia, più voci contemporaneamente, più strumenti contemporaneamente, è un gioco di contrasto, suono quanto voglio e in più creo un crescendo caotico. Quando si tratterà poi di fare gli assoli è la stessa cosa, il primo sassofonista Jack Montrose suonerà la A per 16 volte, la B a piacere, farà un gesto, si torna sulla A e sulla B a piacere. Il pezzo è celebre, ne sentiamo un pezzetto e lo seguiamo insieme. La A è di 16. Neanche perché la parte più tutti insieme. Ultima B. C'è una parte preparata. Piacere. Mingus tra l'altro cambia il tempo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E finisce. E sembra molto complesso da seguire e in un certo senso lo è. Tra l'altro qualcuno potrà fare l'obiezione, ma come fai a sapere che la B è a piacere, visto che non abbiamo uno spartito, nessuno ce lo dice, eccetera? Perché se vi mettete lì con santa pazienza e cominciate a contare le battute di tutte le B, vedete che sono tutte diverse. E perché questa idea del vamp, di due accordi che si ripetono, porta automaticamente all'idea di ripetere le cose per un numero indeterminato di battute. Questo brano fu accolto come una specie di rivoluzione nel jazz di quegli anni, perché improvvisamente faceva diventare la scatola, in questo caso ABAB invece che AABA, il chorus, il ritornello, un ritornello di durata indeterminata. Cioè non ce n'è uno uguale all'altro, uno è un po' più corto, uno è un po' più lungo, e chi decide la lunghezza? Il compositore? No, chi sta suonando in quel momento? Il musicista diventa coautore perché non solo, certo, improvvisa le melodie che il compositore neanche si sogna, perché le improvvisa sul momento e aggiunge le sue idee. Non solo, ma addirittura struttura la forma, perché ogni solista decide quanto deve durare la forma del ritornello. È una cosa che in campo classico non ancora era stata elaborata e non certo poi verrà elaborata con questa ricchezza. Mingus si è inventato anche un altro modo per uscire dalla scatola del ritornello. Cioè l'idea, immaginate, di torniamo al AABA, no? Invece di suonare AABA, io per esempio la A la posso suonare X volte. AABA. Come? Innanzitutto in quali brani? Ci sono diversi brani del disco Blues and Roots nel quale Mingus adotta questa tecnica. Il brano in particolare si intitola Monin, che è omonimo del famoso pezzo di Bobby Timmons, non è lo stesso. Notate le date, 1956 prima, 1958 adesso, siamo proprio nel periodo in cui vengono fuori queste nuove idee. Monin com'è fatto? Allora, di base è, abbiamo detto, AABA, e sentirete quando Jackie McLean, il primo solista, il sax alto, fa il suo assolo, sta dentro la scatola AABA. Di nuovo, Mingus amava forme più estese, quindi ogni segmento è di 16 battute, non di 8. 16, 16, 16, 16. Però, quando vanno a fare il tema, solo quando vanno a fare il tema, succede l'esposizione del pezzo, succede un'altra cosa. E cioè, che fanno un numero imprecisato di A, e poi vanno alla B e fanno l'ultima A. Voi vi chiederete, ma perché e come? Sapete come? Mingus ha questa idea. C'ha un sacco di strumenti a disposizione, se non ricordo male, sax baritono, sax tenore, due sax contralti, due tromboni, tutti questi fiati, oltre al contrabbasso, il pianoforte e la batteria, sono 9 di loro. Fa entrare gli strumenti uno alla volta. A ognuno attribuisce una melodia diversa, quindi di nuovo l'effetto è quello di caos, ma stavolta le melodie sono scritte, non improvvisate. Quindi lui dice, io faccio entrare, faccio fare la A a uno strumento alla volta, entrano uno dopo l'altro, sentirete una specie di effetto piramide, dal registro più basso, il baritono, via via, poi il sax tenore, i tromboni, il sax alto, l'altro sax alto, eccetera. E man mano che entrano gli strumenti, che sulla A, ne fanno tante A quanti sono gli strumenti che entrano. Lui non va mai sulla B, come avrebbero fatto Clifford Brown e Max Roach. Aspetta di far entrare tutti gli strumenti. Non è finita. Una volta che sono entrati tutti, creandosi questo caos, lui ha bisogno che questo caos diventi ancora più caldo, ancora più potente, ancora più caotico, e quindi fa altre A a piacimento. Poi a un certo punto arriverà, noi non lo vediamo, un gesto ben evidente e tutti quanti vanno sulla B. A quel punto si conta 16 sulla B, 16 sull'ultima A, e cominciano gli assoli. E gli assoli sono su A, A, B, A, regolare. Quindi durante l'esposizione del tema lui ha stirato il ritornello, lo ha esteso in modo da... quindi abbiamo A per X battute, poi abbiamo la B per 16 e l'ultima A per 16 battute. Gli assoli invece sono sulla struttura appunto A, A, B, A. Ascoltiamo l'inizio con questo stiramento, questa estensione del ritornello e poi gli assoli. Notate tra l'altro che contrariamente, un ultimo dettaglio, contrariamente a Pithecanthropus erectus, la struttura del tema A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, B, A e quella degli assoli A, A, B, A è diversa. Quindi il pezzo si basa su due forme diverse a seconda delle esigenze. Paradossalmente quella più libera è quella dell'esposizione del tema e quella più rigida è quella degli assoli. Sedici, questa è la... Ora si aggiungono uno a uno gli strumenti, di nuovo A. Ancora. Entra l'ultimo sax alto. Non è finita, lo rifanno ancora. Mingus canta. Gesto B. Sempre 16. Ultima. Ora per la solo A, A, B, A. A. Seconda. Arriva la B. Ah, l'ultima. 13, 15, 16. E poi entra il sax baritono e il pezzo va avanti. Ora voi direte, Zenni, ma quanto sei cervellotico? Stai lì, siamo venuti la domenica mattina e ti vediamo agitarti come se fosse la dea Kali con 4-5 braccia e che stai lì con i numeri. I musicisti... Sì, sì, sì. Per esempio, quando vanno, a volte nei pezzi Migos, quando vanno poi in tre quarti, sì, scusi, faccio così, ma ho la luce di fronte, non la vedo. Quando vanno in tre quarti, sì, mantengono, stanno dentro la scatola. In realtà questa è solo una delle possibili strategie, sto vedendo quelle più semplici, perché poi Migos, man mano che va avanti, ne elabora di più complesse. Però quello che volevo dirvi è che, badate bene, che io sto facendo così il coreografo con le braccia, ma i musicisti fanno esattamente lo stesso, seguono esattamente lo stesso pensiero. Magari l'hanno talmente introiettato che non stanno lì a contare, ma hanno contato e come quando hanno studiato questo pezzo. Quindi il processo che stiamo seguendo noi è esattamente lo stesso processo mentale che seguono i musicisti, soprattutto su un pezzo così complicato dove per un po' il pezzo va avanti con una certa tensione. Tra l'altro la tensione del fatto che suonano tante A contemporaneamente, una dopo l'altra, è dovuta anche al fatto che nessuno sa quando si andrà sulla B. Questo è un fatto psicologico importante, attenzione, il leader, il compositore, cioè il Charles Mingus della situazione, sa benissimo che i musicisti esprimono una tensione, una forza dovuta al fatto che c'è un'incertezza su quando tutti insieme dovremo andare sulla B. Stiamo lì ad aspettare il segnale, ma al tempo stesso non ci dobbiamo trattenere, stiamo suonando, dobbiamo dare il massimo. Anzi, la musica, avete sentito, segue un crescendo di energia. Quindi bisogna lasciarsi andare, ma al tempo stesso stare in campana. Questo modo di gestire l'energia del gruppo sulla mobilità della forma, sull'elasticità della forma, è una strategia su cui Miles Davis ha costruito la sua carriera. Non solo Mingus, perché consente di dare libertà al solista, libertà ai musicisti, ma al tempo stesso l'incertezza, invece di inibire, come dire, scatena, come posso dire, delle forze inconsce, scatena quella parte di te che non è legata all'automatismo. Se io devo suonare per 20 minuti su abbia, dopo un po' vengono fuori degli automatismi. Chi di voi è musicista lo sa molto bene. Anzi, una delle forze, una delle sfide dell'improvvisazione è sfuggire ai propri automatismi. Tutti abbiamo degli automatismi motori, il modo in cui muoviamo le mani, le dita, quindi anche sullo strumento abbiamo i nostri automatismi. Stare dentro la scatola favorisce gli automatismi. Invece, stare in una situazione del genere, in cui non sai quello che succederà dopo, ti aiuta ad uscire dagli automatismi. Miles Davis conosceva molto bene questo problema e infatti a un certo punto ha cominciato ad affrontarlo in maniera non sistematica, utilizzando una tecnica che si chiama quella del turnaround. Ora, la tecnica del turnaround, uso un termine tecnico che si usa tra i musicisti di jazz, è praticamente suonare il famoso giro di Do, quello che chiunque di voi sa suonare ad una festa ammorbando gli amici. Come sapete, l'attuale presidente della SIAE ci ha costruito un'intera carriera. Allora, il nocciolo è questo, che può anche diventare, ok? Quindi così, ci potete parlare di gatti, di sapore di sale, eccetera, su questi quattro accordi. Si chiama il giro, l'ho fatto in Do, il giro di Do, si chiama tecnicamente il turnaround. Che vantaggio c'è? Avete sentito cos'è? Gira su se stesso. Girando su se stesso ci puoi suonare quanto ti pare. Ed ecco che scatta l'idea. Miles Davis ha utilizzato questa idea del turnaround in modo geniale, in particolare nella versione di All of You dal vivo nel 1964, che è molto lunga. Noi ascolteremo l'inizio e l'assolo di Davis. Attenzione, come funziona? All of You è una canzone di Cole Porter, che ha una struttura diciamo basata su questa idea, per cui ogni assolo è a un giro A, B, A, C. Cioè non è A, B, A, lo capite intuitivamente che vuol dire A, B, A, C. C'è un'idea A, un'idea contrastante B, la ripresa di A, una terza idea C. Il tutto stavolta segmenti di 8, 8, 8, 8, 8. Quanti ritornelli si fanno? A piacere, mediamente loro ne fanno due. Quindi fanno A, B, A, C, A, B, A, C. E loro chi sono? Non ho detto i musicisti. Sono Miles Davis, George Coleman, Herbie Hancock, Ron Carter e Tony Williams. Davis e Coleman alzavano un po' la media, ma nel 1964 Herbie Hancock aveva 24 anni e Tony Williams 17 o 18, una cosa del genere. Lo dico per umiliare i musicisti più anziani in sala. Quindi loro fanno A, B, A, no, a volte è importante questo aspetto generazionale, perché poi quell'energia a gestire situazioni nuove viene anche appunto dal fatto che sono musicisti giovani, e Davis si accompagnava a musicisti giovani proprio per ricevere idee fresche e nuove. Allora, tornando a loro fanno All of You di Cole Porter due volte, A, B, A, C, ogni assolo. In questo caso sentiremo Miles Davis che suona questo A, B, A, C, e proveremo a seguirlo. Poi a un certo punto, forse dopo una, forse dopo due ritornelli, forse dopo tre, non lo sappiamo, e qui sta l'incertezza, si va sul turnaround, cioè a un certo punto si lascia la canzone di Cole Porter e si comincia a suonare. Andando sul turnaround, tu puoi suonare quanto ti pare. Suoni quanto ti pare perché il turnaround ti dà tante possibilità. Ma come vai sul turnaround? Fai un gesto davanti a tutti? Lo puoi fare, un gesto con la testa. Davis usa un'altra tecnica, usa un segnale sonoro. Che vuol dire? Vuol dire che c'è una piccola frase concordata che lui fa con la tromba, che vuol dire, quando faccio questa frase, state in campana, perché lasciamo A, B, A, C e andiamo sul turnaround che si suona X volte. Voi direte, Madonna quanto è complicato, ecco perché si fanno pagare tanto. Tra l'altro Davis non solo usa questa tecnica, come vedete, molto aleatoria, ma la spiegava, probabilmente l'ha spiegata ai musicisti con due parole, proprio per evitare di parlare troppo e tenere tutti molto in tensione. Tu suoni sul turnaround tante volte, e questo è il momento di maggiore libertà, perché capite, a quel punto non ti devi preoccupare della scatola A, B, A, C, con tutti gli accordi dentro, le idee, il ritmo, stare insieme, eccetera. Fai quei quattro accordi e vai avanti quanto ti pare. A un certo punto però ne devi uscire, per ricominciare da capo, per dare il posto al prossimo solista. Come ne esci? Ne esci con un secondo segnale, una seconda idea che è ta ta ro ta ro ra. Non ho detto che il primo segnale è una frase che fa pi ba ra po re ba, una cosa del genere, una frase che gira su se stessa. Poi c'è questa frase che sale ta ra ru da ru ra. Vuol dire che appena si fa questa frase, si torna indietro e si ricomincia A, B, A, C. Quindi riassumendo, il solista cosa fa? Comincia a suonare sulla scatola A, B, A, C, sul chorus. La fa una, due, tre volte. Poi a un certo punto dice, voglio uscire da questa scatola. Ecco un'altra strategia per uscire. Mingus avrebbe magari messo una sezione di durata indeterminata, avrebbe esteso una sezione. No. Davis dice, usciamo proprio dal ritornello. Andiamo su un altro giro, andiamo sui quattro accordi. E suoniamo a piacimento sui quattro accordi. Come ci esco? Faccio il segnale. Tutto il gruppo esce. Si sta sul turnaround quanto ti pare, poi faccio un secondo segnale che vuol dire attenzione, si torna a casa. Il prossimo solista seguirà la stessa routine. La cosa è talmente eccitante che se si va a analizzare, per esempio, tutta l'interpretazione dura quasi 18 minuti, di All of You alla Philharmonic Hall dal vivo nel 1964, si scopre che, per esempio, Herbie Hancock suona più a lungo sul turnaround che sul ritornello. Cioè a un certo punto il gruppo comincia a rodare, a crescere, a scaldarsi sul turnaround e suonano più a lungo su quei quattro accordi che su tutto il ritornello. Noi adesso sentiremo l'assolo di Davis che segue questa struttura. (Susurra) Questa è la A. Questa è la B. Il tema è molto mascherato. Questa è la A, la seconda. La C. Secondo ritornello, A. Okay. B. Ricordate, basta contare 8. A. C. Segnale. E questa frase. Ora sono sul turnaround. Sempre gli stessi. Sempre gli stessi. I soliti quattro accordi. Sempre quello, eh? Si inventano tante soluzioni strane. Tanto stanno lì, possono fare quello che vogliono. È Davis che segnala i cambi di atmosfera. Quando fa... E il gruppo si rianima. Sempre lo stesso giro. Possono fare quello che vogliono. E tutti sono pronti però a sapere, a capire quando arriverà il segnale di fine. Addirittura va via Tony Williams, tutto molto in trio, tromba, pianoforte e contrabbasso. Non c'hai vincoli. Non c'hai limiti. Poi entra Tony Williams. E all'improvviso arriva il secondo segnale. Eccolo. A. Davis esce, entra George Coleman. eccetera, poi lui farà A, B, A, C e così via. Ora già sento la vostra obiezione, ma se non ce lo spiegavi noi non l'avremmo mai capito. Allora, intanto questo è il mio mestiere, mi guadagno da vivere in questo modo. In realtà non dovete capirlo. Cioè, la strategia di Miles Davis è che questa cosa a malapena la devono capire i musicisti che la devono eseguire. Il pubblico non si deve rendere conto. Avete sentito com'è impalpabile il passaggio dal ritornello al turnaround? Se uno non sta lì a dirtelo, o non sei un musicista con un orecchio particolarmente raffinato, non la cogli questa cosa. Perché Davis in realtà vuole solo che il pubblico percepisca che la musica a un certo punto si conquista uno spazio di libertà in cui possono fare quello che vogliono. Togliere la batteria, il pianoforte che suona e non suona, duo, trio, ora più energico, ora più soffice, ora con pochi accordi, ora con molti accordi, ora più forte, ora più piano. E voi vi direte, mamma mia, come varia questa, come si intendono, come faranno a intendersi così? C'è un prerequisito, non solo si intendono perché sono insieme da tempo, perché sono grandissimi musicisti, ma si intendono perché le premesse su cui stanno suonando sono semplici, quei quattro accordi. E allora su quei quattro semplici accordi sanno di potersi scatenare e fare quello che vogliono. Poi direte, mamma mia, come hanno fatto a finire tutti insieme? Entra George Coleman, il basso e la batteria. E beh, lì sono segreti del musicista. Loro sanno che c'è un segnale, lo sanno fra di loro. E voi direte, tu Zenny come hai fatto a saperlo? E che se ascoltate attentamente tutto il brano, scoprirete che George Coleman usa lo stesso segnale per passare al turnaround e per chiudere il suo assolo, e lo stesso fa Herbie Hancock. Quindi, ascoltando diverse versioni, vi accorgete a un certo punto che emergono delle costanti, e queste costanti sono le regole. Tutti i brani che abbiamo ascoltato fin qui sono brani di musicisti che sono stati attivi, neri soprattutto, che sono stati attivi, hanno inventato queste cose tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60. Questo è quello che ci raccontano le storie del jazz, ma in realtà le storie del jazz raramente ci raccontano che dei musicisti bianchi su tutt'altro territorio, in California, stavano seguendo altrettante idee sperimentali per liberarsi dalla forma tradizionale. Cioè la California negli anni 50, oltre a essere la patria di Stan Getz, di Stan Kenton, di un jazz che a volte è stato così definito piacione, era anche un terreno di sperimentazione attraverso il lavoro di alcuni musicisti che adesso sentiremo in un breve esempio che ci aiuta a capire. Shorty Rogers, Jimmy Giuffre, Teddy Charles, Shelly Manne, nella foto vediamo il batterista Shelly Manne, il trombettista Shorty Rogers, il sassofonista Jimmy Giuffre, ma anche il vibrafonista Teddy Charles. Che cosa fanno questi musicisti? Tra le altre cose, tra l'altro, sperimentano improvvisazioni collettive completamente libere, ma soprattutto cominciano a sperimentare un'idea molto interessante, e cioè fare un brano in cui ci sia una scansione metrica regolare, cioè 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, quella del jazz, lo swing, va bene? È detto con un termine un po' pomposo, metrico, scansione metrica regolare. Quello che ti fa battere il piede, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. L'equivalente delle nostre stanghette degli esempi precedenti. Poi però, invece di avere la scatola, e qui vi chiedo di fare un attimo attenzione, invece di avere la scatola A, A, B, A, A, B, A, C, quello che vi pare, non c'è scatola, c'è solo una scala di riferimento. Per esempio, che cos'è una scala? Un insieme di suoni. Beh, io suono quello che mi pare usando queste note. Voi direte, sì, ma per esempio c'è il turnaround degli accordi? No, niente, non c'è nessun accordo, è tutto fermo così. Come vedete sfogo anche le mie velleità di jazzista in questa... Questa cosa che ho fatto in maniera estremamente semplificata vuol dire che io non ho scatola, ho solo una serie di note di riferimento, quelle che ho suonato, il tempo regolare, e allora che faccio su questo? Suono quanto mi pare, non conto, non c'è 8 battute, 1, 2, 3, 4, 1, non ce ne sono 8, ce ne sono 10, 100, 1000, 20, quante ne pare? Tu conti, tot volte 4 quarti. È l'improvvisazione che si chiama modale. Ne abbiamo parlato in una scorsa lezione quando abbiamo parlato di Kind of Blue. Quindi che cosa succede? Che io si suona questa scala senza limiti, nessun ritornello, cioè avete visto le stanghette? Ne sono quante mi pare di quelle stanghette. Così. E non c'ho nessun tipo di accordi sotto. In questo modo io posso suonare da solo, contemporaneamente con altri, e non ho limiti. L'importante è che c'ho questo insieme di suoni di riferimento. Vi faccio sentire Teddy Charles, Shorty Rogers, Shelly Manne, Jimmy Giuffre improvvisare in questo modo. La melodia, ovviamente, dimenticavo un dettaglio, la melodia è libera, cioè io ho la scala di riferimento, questa, e con queste 7 note, sono in realtà anche altre posso aggiungercene, sono tutto quello che mi pare. Capite che in questo modo non c'è forma, non c'è struttura. Tutte quelle stanghette, una dopo l'altra, tutto qua. Ascoltandolo diventa abbastanza semplice da capire. L'esempio, il brano si chiama Boba Lob, notate la data, 1953, prima degli esempi di Charles Mingus, prima degli esempi di Miles Davis. Fanno un riff. Questo è il riferimento. Io lo sono su questo. Stando su questo insieme di suoni, va avanti a piacere. C'è il tempo. Sempre lì. Teddy Charles. L'insieme di note è questo. Anche il basso. Sta fermo lì. Sfere come vuoi. Se un pezzo del genere vi dà la sensazione di essere statico e informe al tempo stesso, avete la sensazione giusta, perché stando sempre su questa scala, su questo modo, scala, modo sono più o meno sinonimi. E anche il basso suona, sempre su queste note, il pezzo è statico, per avere movimento dovrei cambiare gli accordi. Invece sto sempre qui. quindi dà un senso di staticità, al tempo stesso sembra informe il pezzo, vedete, non sembra avere una direzione precisa. Perché? Perché effettivamente non ce l'ha. Io posso improvvisare a piacimento su quelle stanghette, su questa melodia, e il pezzo può andare in mille direzioni diverse e forse nessuna direzione. Dà al tempo stesso un senso, ripeto, di stasi e di movimento. Questa è quella che si chiama improvvisazione modale, di cui pochi sanno. I californiani bianchi nei primi anni 50 sono stati dei pionieri. E in effetti la California è stata, vale la pena di ricordarlo rapidissimamente, una specie di, come posso dire, veramente di laboratorio di queste idee. Anche se i californiani non sono necessariamente connessi poi a Coltrane, che questo tipo di improvvisazione statica l'ha portata al massimo livello. Perché l'ha portata al massimo livello? Perché Coltrane, che ha lavorato moltissimo, anche in maniera molto razionale, su questo principio, che cosa ha fatto? Ha detto, io c'ho una scala, un solo modo. E questo, per esempio, tra l'altro, è una tecnica che lui lo sapeva, si trova in molte musiche del mondo. La musica classica indiana, per esempio, è basata sullo stesso principio. Uno, quando avete mai sentito il sitar che suona, che improvvisa a lungo, è quello come improvvisa. Esattamente così. C'è la tampura che ti fa quella nota di basso continua e il sitar improvvisa solo sulle note della scala, esattamente come nel pezzo di Jimmy Giuffre che avete sentito prima. O come fa Coltrane, solo che Coltrane, in pezzi come India, per esempio, del 1961, va oltre. Allora, rispetto al pezzo precedente c'è la scansione metrica regolare, cioè uno conta 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, c'è il tempo, e quella è una cosa importantissima perché tiene insieme i musicisti, è il collante che li fa andare sullo stesso binario. C'è una sola scala di riferimento, questa volta questa scala è questa, ok? Così. Poi, come nel pezzo precedente, questa scala viene suonata senza limiti. Il pezzo precedente durava 2 minuti e mezzo, questo non lo sentiremo intero, ma in India può durare anche 20 minuti. Ma lo sapete bene, un'improvvisazione raga può durare anche molto di più nella musica indiana. Poi però, e quindi guardate l'ultimo punto, durata molto estesa. Questa è una delle novità di Coltrane. Non solo suono su un accordo solo, ma ci suono tanto. Cosa che richiede una nuova energia e un nuovo modo poi di organizzare le idee. Come faccio a suonare tanto su una sola scala? E questo è il penultimo punto. La melodia è libera, cioè come prima, si suona sulla scala di riferimento, o altro, ho scritto. In realtà, o altro vuol dire suona quello che ti pare. Questo è un principio acustico interessante. Se io tengo un basso sempre fermo, e sopra ci suona la scala, funziona. Ma la cosa formidabile della musica è che se la base è statica, sopra potete veramente metterci quello che volete e funziona. È chiaro che ci sono delle note che danno più tensione perché non sono consonanti e delle note che danno meno tensione perché sono consonanti. Coltrane gioca su questo. Questa è la grande novità. Sto su una base sempre uguale, ma sopra gioco con la consonanza e la dissonanza a piacimento, il tutto con una grande durata, una grande forza, una grande energia. La possibilità di suonare delle note fuori dal modo mi dà ulteriore libertà, perché in questa ottica appunto di libertà che stiamo analizzando stamattina, l'idea è questa. C'ho un modo, quindi suono quanto mi pare. Non c'ho limiti, non c'ho confini, non c'ho ritornelli, non c'ho scatole. E sopra le note della melodia non hanno limiti di scelta. Ti sembra dissonante? Chi se ne importa? Serve per creare tensione, poi metterò delle note più consonanti per darti più distensione. Il tutto, ripeto, in un contesto di grande energia e di lunga durata. Di questa lunga durata noi apprezzeremo solo qualche minuto perché sentiamo un frammento della versione di India, registrata dal quintetto di Coltrane, anche con Eric Dolphy al clarinetto basso e altri ospiti, c'è Garvin Bush al suonalobo e Ahmed Abdul Malik suona l'oud per dare un'atmosfera orientale, poi sentiremo l'assolo di Coltrane, tra l'altro per evitare di sentire di più la consonanza e la dissonanza, anzi per dare più libertà al sassofonista, che qui suona il soprano, McCoy Tyner al piano, a un certo punto non suona, c'è solo il basso. Se io non suono il pianoforte, tu sassofonista hai molti meno vincoli, perché le tue note non si confrontano con le mie. Se io tolgo il pianoforte, tu sopra suoni quello che vuoi. E questa è una grandissima libertà che ti viene offerta. Elvin Jones, dimenticavo. Jimmy Garrison, Reggie Workman, McCoy Tyner. Questo è un oboe, adesso arrivo. We'll be right back. eccetera, eccetera. Questo va ancora avanti per un po', è impressionante. Capite che avendo pochi parametri che permettono ai musicisti di stare insieme, il tempo e la scala di riferimento, tutto il resto è libero, come dire, è aperto alla possibilità di interagire. Avete sentito, per esempio, fra il sassofono e la batteria. Il batterista non deve più preoccuparsi di abbia, ammesso che i batteristi si preoccupino di qualche cosa, ma insomma, sapete che sono un po' la bestia nera dei gruppi, però in questo modo c'è uno spazio sconfinato davanti. Questa è la forza di questa musica, avere questo spazio grandissimo. Noi la sentiamo questa cosa, anche se non sappiamo come funziona tecnicamente, adesso l'abbiamo capito, ma l'obiettivo del musicista è darti l'idea che c'è uno spazio sconfinato e il solista lo può percorrere senza nessun tipo di limite, che non sia quello della durata e della resistenza fisica e del dare anche ovviamente una forma, un senso a questo discorso. Un'ultima modalità che voglio esplorare con voi di gioco fra la libertà e la regola, fra il vincolo e l'anarchia quasi, riguarda una pratica che qualunque musicista ha sicuramente esplorato per conto proprio almeno una volta, cioè quello di mettersi in una stanza 3-4 persone e dire: suoniamo tutti insieme contemporaneamente e vediamo che succede. È uno sfizio che se lo saranno tolti nei millenni i musicisti più volte, ma è chiaramente uno sfizio, cioè è una cosa che si fa per vedere che cosa viene fuori. In realtà questo sfizio... Ah no, scusate, faccio una piccola... Ho cambiato l'ordine. Guardiamo prima un'altra cosa, scusate. Voglio farvi vedere una cosa di Ornette Coleman, chiedo scusa, torniamo dopo alla questione dell'improvvisazione collettiva. Quando nel 1959 Ornette Coleman arrivò a New York, la gente pensava che questo sassofonista texano, che però era cresciuto in California, fosse pazzo, perché suonava a casaccio in apparenza. In realtà, se la musica di Coltrane ha una regola che si percepisce, se la musica di Mingus ha una regola che si percepisce, anche la musica di Ornette Coleman, che viene considerato il padre del free jazz, ha delle regole che sono nella musica, solo che si percepiscono meno facilmente. Ed è quello che vorrei mostrarvi. Il disco chiave è The Shape of Jazz to Come. La Atlantic sapeva come vendere i dischi, la forma del jazz a venire. 1959, il famoso quartetto con Don Cherry, Charlie Haden e Billy Higgins, siamo ancora in California, e voglio mostrarvi come Ornette Coleman fa un pezzo che sembra completamente libero, ma in realtà dietro ha una struttura vecchia come il cucco. Ci divertiamo a scoprirlo insieme. Il pezzo lo vedremo poi, il titolo si intitola Chronology, pensate un po', è basata sulla vecchia struttura AABA, quella del nostro primo esempio. Addirittura la base, la griglia, è quella di una canzone di George Gershwin, I Got Rhythm, che è una canzone il cui giro fa... Ok? Questa è la A. La B fa... E di nuovo la A. Vi faccio sentire come ci improvvisa sopra Lester Young. Seconda. AABA, la B tra l'altro si riconosce facilmente perché c'è questa cosa, con questi accordi lunghi. Ok, questo era un pezzo degli anni 40 con Lester Young che improvvisa liberamente su questo giro. Però cosa fa Ornette Coleman? Questa armonia che sotto c'è in questo pezzo Non viene resa esplicita perché il quartetto non ha il pianoforte. C'è la tromba tascabile di Don Cherry, il contrabbasso di Charlie Haden e la batteria di Billy Higgins. Non essendoci il pianoforte, i musicisti che stanno sopra, come nel caso di Coltrane, si sentono più liberi di metterci dentro delle note che non c'entrano. Non solo, ma senti meno bene tutta questa griglia. Se ci fosse stato un pianoforte sarebbe stato molto chiaro. Invece non c'è. Allora, Ornette Coleman, quando fa questo pezzo che stiamo per ascoltare, l'improvvisazione è apparentemente libera, solo perché la griglia è diventata trasparente. Non c'è, c'è ma non si vede, non si sente. Allora tu dici, ma senti come sono un accasaccio. No, non sono un accasaccio, suonano su questa griglia. La cosa incredibile è che quando Coleman arrivò a New York suonando questa musica nel 59, i musicisti, anche i più acuti, non si resero conto che sotto c'era la griglia. Erano talmente presi da un'idea molto formale di jazz, come quella di Clifford Brown e Max Roach, che la sola assenza del pianoforte, le note strane e strambe che suonano Don Cherry sopra, facevano pensare che loro suonassero a casaccio. E invece no. Adesso me ne do una dimostrazione. Chronology, ascoltiamo l'assolo di Don Cherry, ne ascoltiamo un pezzetto, l'assolo di Don Cherry e poi l'inizio dell'assolo di Ornette Coleman. Mi permetterò di rovinare l'ascolto suonandovi il basso della AABA, così sentite, strada facendo, come il tema, in realtà la griglia, sta sotto questo pezzo apparentemente libero. Questa è la A. Seconda A. Arriva. B. Seconda. B. Ultima. Ora ascoltiamo senza piano. Seconda. B. Ultima. Coleman. Ah. Vedete che sono caduti proprio perfettamente. Respira pure secondo la struttura. B. Ah. Solo che sceglie delle note strampalate. Seconda. Eccetera. Il passo successivo di Coleman fu quello rivoluzionario, al quale non ci siamo ancora arrivati e ci arriviamo adesso, di togliere la griglia. Attenzione, non solo tolgo A, A, B, A, tolgo la griglia, tolgo pure la scala di riferimento, come faceva Coltrane. Non c'ho la griglia, però c'ho un insieme di note su cui suono. Modale, no? No. Non suono su nessuna struttura e c'è solo un elemento, anzi due, un elemento che tiene di base, che tiene i musicisti insieme. Il tempo. Un, due, tre, quattro, un, due, tre. Questo binario del tempo è l'elemento che li tiene insieme. Ma non avendo altri elementi strutturali, tutto pesa sulla melodia. Allora, cosa vuol dire time no changes? È una espressione idiomatica dei musicisti. Vuol dire che i changes sarebbero gli accordi. No changes, non c'è I got rhythm, non c'è un modo, non c'è niente. Però c'è il time, c'è il tempo. Suoniamo liberamente quello che ci pare, quanto ci pare, solo stando sul tempo. Questa libertà, per evitare che diventi caos, però pone l'enfasi su che cosa? Sulla melodia. Adesso noi ascolteremo Congeniality, che viene dalla stessa seduta di incisione di Chronology, che ha queste caratteristiche. Il tema è libero, parte, si ferma, cambia tonalità, è una scrittura irregolare, è totalmente indipendente da quello che viene dopo. Per inciso è bellissimo, come tutti i temi di Ornette Coleman. Poi attaccano il metro regolare, il basso e la batteria suonano regolarmente. Questo che cosa porta? Porta al fatto che non ci sia nessuna armonia o scala sotto. Il contrabbasso, il sassofono, la tromba suonano senza un riferimento preciso che non sia il tempo. Non c'è ovviamente nessun ritornello, A, B, A, niente, per carità, niente di tutto questo. E questo è il punto, c'è una libera improvvisazione melodica, mi invento le melodie come mi pare. E siccome Ornette Coleman è uno dei più grandi melodisti del Novecento, le melodie che lui inventa sono bellissime, libere, sono come voli di uccelli. Si può inventare, lo sentirete a un certo punto, tira fuori una citazione del concerto per pianoforte e orchestra di Tchaikovsky. L'introduzione. Cita Charlie Parker, suona delle melodie infantili, vola da un'idea all'altra. Che problema c'è? Sotto c'è il tempo, c'è lo swing, il basso suona quello che vuole, io suono quello che voglio e la musica fluttua liberamente attraverso questa catena di melodie. E siccome Ornette Coleman è un grande bluesman, con questa voce quasi umana, come se fosse quasi una chitarra elettrica, no? C'è questo sassofono che parla, che canta, essere così melodici è una grande libertà. Notate, qui c'è una conquista straordinaria che è al tempo stesso un passo indietro. Il grande balzo in avanti è fatto attraverso un passo indietro. Io vado verso la totale libertà, non ho forma apparentemente, che non sia il metronomo del basso e della batteria, ma di fronte a questo non avere vincoli, io mi aggancio alla cosa più semplice della musica, la melodia, il canto. Sentiamo almeno la solo di il tema. Non c'entra niente con quello che viene dopo, è libero. Anche questo molto cantabile. Ecco il tempo. Tutto quello che deve fare è seguire come lui canta. Koski. Papparababa. Come dire, ho scherzato. Don Cherry. Eccetera. Dicevo, ci avviamo verso l'ultima parte di questa faticosa, mi rendo conto, esplorazione del linguaggio del jazz, ma spero gratificante, perché gli ascolti sono, anche se frammentari, mi sembrano molto molto belli, con un ultimo esempio che vi facevo prima di questa deviazione, e cioè del suonare tutti insieme. Ora, di solito noi pensiamo che le grandi innovazioni del jazz siano venute dai musicisti neri. È un cliché che serve anche un po' a quietare il nostro senso di colpa per averli sfruttati per secoli, i neri di origine africana, come schiavi nella nostra civiltà. In realtà alcune delle più grandi innovazioni sono venute da musicisti bianchi, e ce n'è uno in particolare che tra l'altro è di origine italiana, che è Lenny Tristano, cieco dall'infanzia, il pianista che vedete sulla sinistra con il suo gruppo di allievi, tra cui spicca l'unico ancora vivo, il terzo da sinistra, Lee Konitz. Gli altri sono il tenorista Warren Marsh, Arnold Fishkin al basso, Billy Bauer alla chitarra e Irv Kubler alla batteria. Questo gruppo di musicisti cominciò a seguire un'indicazione di Tristano piuttosto curiosa, cioè suoniamo tutti insieme contemporaneamente. Voi direte, che cosa viene fuori? Boh. La risposta è questa, boh, è il casino, è il caos. È un esperimento, magari suonando tutti insieme contemporaneamente viene fuori qualcosa di interessante, ma con quali regole? Nessuna. Poi magari suonando insieme capiterà che ci orientiamo, per esempio ci ritroviamo su un tempo, perché ci viene spontaneo. Però cerchiamo di non suonare quello che suona l'altro, ognuno vada per favore per conto suo, in modo che l'ascoltatore entri in una specie di polifonia come quella di Bach, però forse più simile a quella di Schoenberg. C'è un intreccio di voci nella quale un intrico, nel quale una foresta nella quale devi inoltrarti con l'orecchio e vedere che cosa succede. Voi direte, ma questo è un esperimento, non è musica. Sì, è un esperimento che loro facevano, tra l'altro, tanto sono registrato nel podcast, lo posso dire, l'Iconitz ha rivelato che per fare questa cosa talmente fuori dalla normale, loro si facevano una canna prima, questo lo do come indicazione di metodo, diciamo, e si lasciavano andare e provavano a vedere cosa venisse fuori. La cosa rivoluzionaria di Tristano è che questo esperimento privato, che ripeto, qualsiasi musicista sicuramente una volta nella vita avrà fatto, è diventata un'opera. Cioè lui ci ha messo un titolo, l'ha registrata, ne ha fatte due, ne ha registrate due, l'ha pubblicata e dal vivo faceva queste cose nei concerti. Quindi ciò che sembra una pura bizzarria, un esperimento, un momento eccentrico di libertà, diventa un'opera. Che è qualcosa di simile, se volete, a per esempio a certa pittura gestuale più libera, che diventa da gesto opera nel momento in cui, è una cosa che Duchamp sapeva molto bene, no? Cioè prendi il pisciatoio, lo rovesci, lo metti in un museo e diventa opera. Ecco, pubblicare la libera improvvisazione diventa opera. Io vorrei farvi sentire questa cosa che è accaduta nel 1949 sotto gli occhi esterrefatti del tecnico del suono della Capitol, abituato a registrare Frank Sinatra, questa roba qui, che si vede sti cinque pazzi, i pa, quanti ne sono, che fanno questa cosa. Non a caso, loro registrarono due brani, per far uscire questo ci furono delle pressioni e l'altro uscirà solamente nel 53 o 54, pensate un po', perché era considerata neanche musica. C'è solo una regola in Intuition, in effetti, che all'inizio ognuno deve entrare in un ordine stabilito a 20 secondi di distanza dall'altro, non iniziano tutti insieme. E poi ognuno improvvisa liberamente. Dura poco più di 2 minuti, sentite l'effetto. Ah, non ci sono ovviamente, come vi ho detto prima, nessun metro o velocità prefissati, anche se a un certo punto sembrano coagularsi come naturale intorno a una pulsazione. Nessun ritornello, questo va da sé. Thank you. libera improvvisazione viene proposta come opera. Voi direte, io mi devo sentire questa roba. Intanto stamattina siete venuti qui e vi tocca. Però, lo so che oggi ho perso in un colpo solo la metà degli spettatori che vengono abitualmente a queste lezioni, ma ci vogliono anche queste cose. Infatti, signora. Ma ci vogliono anche queste cose perché ci aiuta a comprendere una cosa fondamentale, due cose fondamentali che vorrei dirvi. La prima è che l'arte ovviamente ha sempre delle regole. Queste regole possono anche essere però negative. Notate la lista che c'è lì, nessun metro, nessun ritornello. Cioè anche dire non facciamo così, non facciamo colà, non usiamo queste cose, sono già regole, sono già criteri che noi adottiamo. E naturalmente i musicisti più, come dire, sperimentali ci costringono a seguirli su terreni che non fanno parte delle nostre abitudini musicali. Questo terreno che ascoltate è particolarmente impervio, quello che abbiamo sentito, perché ha una caratteristica. Loro scientemente, tranne qualche punto, per esempio nel finale, evitano di imitarsi, evitano di dialogare. Quindi è come quando ascoltiamo la musica, che so, del 400, ci abbiamo 4, 5, 6, 7 voci contemporaneamente e l'orecchio deve sforzarsi di seguire più melodie contemporaneamente. Questo tipo di esperimento, che risale addirittura al 49, fece tra l'altro molti proseliti proprio in California, come vi dicevo, e adesso non ascoltiamo degli esempi qui, però vale la pena di ricordare un po' di nomi di musicisti che in California negli anni 50 hanno lavorato soprattutto a questa libera improvvisazione, proprio stimolati dagli esempi di Lenny Tristano. Ma in realtà poi il jazz è andato inizialmente in questo senso di libertà in un'altra direzione, di suonare contemporaneamente, ed è la direzione del dialogo, che è anche la più logica. Cioè, mentre i musicisti di Tristano si erano dati la regola di non dialogare fra di loro per ottenere una specie di polifonia bacchiana astratta, invece alcuni musicisti, in particolare il pianista Cecil Taylor, a Boston soprattutto, verso la fine degli anni 50, hanno cominciato a dire: ma io voglio suonare liberamente, però voglio dialogare. Per fare questo, di nuovo, si stabiliscono delle regole. Taylor, in particolare, nel disco Looking Ahead, con il bassista Buell Nidlinger e il batterista Dennis Charles, nel brano Off What, 1958, che forse è il primo brano di jazz completamente libero in cui i musicisti dialogano, stabilisce queste seguenti regole. Il metro è regolare, come in Ornette Coleman. C'è sempre quello, c'è bisogno, altrimenti Tristano è molto più audace, perché non c'è il metro. Qui invece loro ritornano al metro regolare. Chi lo fa il metro? Beh, a volte lo fa il basso, a volte lo fa solo la batteria, a volte lo sentirete solo il Charleston. Già quello è un aggancio, è una cosa piccolissima, ma da ordine. È un aggancio. A volte tutte e due, poi vedremo, non ascoltiamo per intero, sentiamo un pezzetto. Non c'è nessuna armonia, nessuna scala, come nel pezzo di Tristano. E soprattutto non c'è nessun ritornello, d'accordo, ma soprattutto cosa c'è? Allora cosa devo seguire io nella musica? Il dialogo fra i musicisti. In particolare fra il pianoforte, appunto il basso, e la batteria, che dialogano fra di loro, ora a coppie, ora tutte e tre. E vi chiedo, siccome la musica qui non è semplicissima, perché ognuno suona molto liberamente, il criterio qual è? È quello davvero di dialogare imitandosi i gesti. Non andate a cercare la melodia, non andate a cercare il tema. Invece tornate ad una condizione, vi suggerisco, più corporea. Lo svolazzo, la caduta, la leggerezza, il ribattuto, il rimbalzo, la massa, la nota sparsa. Ecco, i musicisti dialogano in questo brano, come spesso accade in questo genere di brani, avendo, abbiamo detto, il metro e poi usando degli scambi gestuali, è come un balletto. Non preoccupatevi se le note sono strane e dissonanti. Certo, Cecil Taylor ha un approccio percussivo che gli viene dall'imitazione di Duke Ellington, Horace Silver, Thelonious Monk, non è certo una novità, ma è una novità questa idea di dialogare sulla gestualità. Se vi concentrate sulla gestualità troverete questa musica tutt'altro che astrusa. Thank you. c'è il tempo. Ora il batteria e piano diavolo. È diventato una solo di batteria, l'hanno lasciato da solo, poi entrano di nuovo. Solo una parte. In questo genere di operazioni è chiaro, come nell'arte contemporanea, il risultato finale è meno importante del processo che porta a quel risultato finale. Noi non sappiamo in che direzione andrà il pezzo non ha una struttura predefinita e non è neanche importante sapere dove andrà a finire, l'importante è che sotto i nostri occhi il pezzo assume continuamente una forma diversa. Attenzione, poi il risultato finale non è che poi sia così secondario, perché per esempio i musicisti possono improvvisare liberamente, decidere che quello che hanno fatto non è convincente, buttare la registrazione e ricominciare da capo. Questa è una cosa, per esempio, che faceva Jackson Pollock quando dipingeva i suoi drippings, ce l'avete presente? Pollock, in realtà, in quel magma caotico, riconosceva una idea, seguiva una sua idea. Se alla fine del dripping il risultato non gli piaceva, lui poteva prendere la tela e buttarla, ricominciarla da capo. Cioè c'è un elemento di casualità, certo, nel gesto, nel modo in cui Taylor suona, nella interazione che a volte funziona, a volte meno con i musicisti, ma questo elemento di casualità va verso un obiettivo, verso comunque un prodotto finale che ti viene offerto. Non è un caso, e qui arriviamo veramente quasi alla conclusione, non è un caso che Ornette Coleman, quando incide nel 1960 l'album Free Jazz, decide di mettere in copertina, lo chiede lui, un'opera di Jackson Pollock. Tra l'altro, va detto, per ragioni generazionali, Pollock era già morto. Pollock dipingeva quel genere di cose ascoltando jazz, ma ascoltava Charlie Parker, perché il free jazz non c'era ancora. Ma non è un caso che lavori del genere abbiano ispirato i musicisti degli anni 60, perché c'è la stessa idea di processo, la stessa idea di casualità semi, come dire, direzionata. E allora, free jazz, che poi diede il nome a un intero movimento, con un'eccezione: una volta andarono a fare un concerto con questo gruppo di musica tutt'altro che facile e c'era una marea di gente fuori in provincia. Sapete che era successo? Che avevano interpretato Free come gratis. Free jazz ha delle regole ben precise che vi elenco ben rapidamente. C'è il time no changes, cioè quello che abbiamo visto in Ornette Coleman prima, cioè c'è bassi, sono due quartetti che suonano contemporaneamente. I bassi e le batterie scandiscono una scansione regolare, ma non c'è nessuna armonia di base, come in Congeniality. Non c'è nessun ritornello. Poi sentiamo una serie di assoli. Chi di voi ha familiarità con questo disco sa che ci sono, i solisti sono, se non ricordo male, nell'ordine Eric Dolphy, poi c'è Don Cherry, poi c'è Ornette Coleman, poi c'è Freddie Hubbard, adesso non ricordo l'ordine esatto, ma insomma c'è un certo ordine. E c'è anche però della polifonia. Che cosa succede nel pezzo? Succede che c'è un ordine dato dai solisti, voi mi direte chi se ne importa, ma è già una regola. Ci sono dei solisti che devono andare in un certo ordine. Tra un assolo e l'altro si suonano delle parti d'assieme preparate. Finito un solista, ne attacca un altro, lo sentiremo un frammentino, c'è una parte che può essere caotica quanto volete, ma c'è la regola: quando io finisco, prima che attacchi tu, dobbiamo suonare una breve parte tutti insieme. E questa è la cosa straordinaria, la grande novità di Free Jazz, che Mingus aveva già intuito in Pithecanthropus Erectus. Durante l'assolo di Tizio o di Caio, siccome ci sono altri fiati, chiunque può entrare durante l'assolo di un altro, suonare quello che vuole per tutto il tempo che vuole. Cioè, io sono Ornette Coleman, sto suonando, sentirete entrare ogni tanto Freddie Hubbard, Don Cherry, Eric Dolphy, a volte tutti insieme, poi uno se ne va, poi un altro rientra, e intanto io continuo il mio assolo. Si crea quella polifonia, quell'intreccio, quel dialogo, in un intreccio continuo che cambia continuamente di forma. Ora sono 5 strumenti, ora 4, ora 1, ora 3. Ed è un dialogo continuo. C'è un'eccezione che durante gli assoli di basso e di batteria, che sono tra i momenti, come ricorderete, più suggestivi anche dell'album, i fiati devono tacere, si crea un momento di silenzio. Quindi, come vedete, quello che viene chiamato free jazz ha delle regole. Ce l'ha, e come tutta l'arte apparentemente libera ha delle regole, perché se io sto comunicando con te, tu per comprendermi devi comunque comprendere quelle regole. Se non ci sono regole non ci può essere una comprensione mutua. Noi adesso ci ascoltiamo, per concludere, un frammentino e poi facciamo un'ultima considerazione, una coda se mi consentite, un frammentino di free jazz. Chiederò, siccome è un po' tardi, chiederò al tecnico di sfumare a un certo punto. E sentiamo la fine dell'assolo di Don Cherry, questa parte d'assieme prima dell'inizio dell'assolo di Ornette Coleman, in modo che possiamo apprezzare, mentre lui improvvisa, il fatto che gli altri entrano. La musica è un processo, la musica è un divenire di accadimenti e di dialoghi. (Musica) insieme. Questo è scritto. Coleman. Gli altri tengono il tempo. Col suo melodizzare meraviglioso. Poi rimane da solo. Ci sono i Kirk Dorsey con lui. Poi entra la tromba. Fumare, grazie. Grazie. La conferenza potrebbe finire qui, ricordando una cosa importante, cioè che questa musica, che a qualcuno potrà sembrare difficile, e lo è, strana, astrusa e forse perfino illegittima, è musica di più di 50 anni fa. Quindi se vi sembra, come dire, ancora una musica di rottura, è perché in effetti è il nostro orecchio che non si è ancora abituato a quello che certi artisti hanno già fatto ben 50 anni fa. Quindi non è certo una novità il modo di suonare di Ornette Coleman. La mia enfasi sta nel fatto che volevo mostrarvi appunto che quello che viene chiamato free jazz, o meglio, quella fase di transizione che abbiamo studiato oggi tra Mingus e Ornette Coleman, è in realtà un esplorare diverse combinazioni di regole. E io potrei anche fermarmi qui, ma vi chiedo 5 minuti di orologio, non un minuto di più, per una piccola coda. C'è un musicista che ha detestato profondamente il free jazz a parole e ha insultato apertamente a parole Ornette Coleman. Questo musicista è Miles Davis, che, voglio dire, quanto a insultare la gente era un maestro. In realtà, se andiamo a vedere che cosa ha fatto a un certo punto della sua carriera Miles Davis, scoprirete con raccapriccio che lui, benché sputasse su Ornette Coleman o sul free jazz, o per non parlare di Cecil Taylor, in realtà ha adottato in certe occasioni le stesse strategie, con una piccola sorpresa. Noi adesso andiamo a ascoltare, per intero, perché dura solo 4 minuti, il brano Sorcerer 1967, il glorioso, grandissimo quintetto con Way Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter e Tony Williams. Che cosa succede in questo pezzo? Il pezzo fu composto da Herbie Hancock e Davis gliel'ha sconvolto. Questa era la strategia. Davis non era un compositore, era un ricompositore di materiale altrui. Hancock, 27 anni, arriva con questo pezzo, Sorcerer, e gli dice: lo suoniamo? E Davis dice: sì, ma alla maniera mia. Allora, il tema in cosa consiste? Consiste in un'idea di 16 battute con accordi. È un pezzo tradizionale, non è A, B, A o A, B, A, C, è più corto. Solo se contiamo 16 battute con gli accordi. Va bene? K, classico, chorus, ritornello, tempo, accordi, melodia, niente di più tradizionale. E fanno questo tema 3-4 volte, tra l'altro a un tempo molto più veloce di come lo voleva originariamente Hancock. Poi a un certo punto, invece di fare l'assolo di tromba, l'assolo di sax, l'assolo di piano, Davis e Shorter, anzi nell'ordine Shorter e Davis, si scambiano delle frasi ogni 8 battute, cioè la scatola è di 16. Suono 8 io, 8 tu, 8 io, 8 tu, 8 io, 8 tu. Ma nel fare questa cosa, Davis decide che l'accompagnamento non deve avere accordi. Stanno dentro la scatola, ma suonano a casaccio, suonano liberamente. Gli accordi, l'armonia, l'accompagnamento di Herbie Hancock viene cancellato. In modo che, notate bene, siamo in una situazione diversa perfino da quella di Ornette Coleman. Cioè abbiamo la scatola, possiamo contare, e conterò con voi, contiamo, ma sotto il materiale musicale è come Congeniality o Free Jazz. Libero. C'è solo la scatola vuota. Questo durante gli scambi di Shorter e Davis. Dopodiché rifanno il tema, quindi Shorter fanno 8 e 8 senza gli accordi. Dopodiché rifanno il tema con gli accordi e fanno una cosa geniale. Il pezzo finisce con pipa parapà, il tema con questa melodia la fanno 3-4 volte pipa parapà, questa piccola codetta, finché a un certo punto, lo fanno apposta, il pezzo si sfalda, cioè non c'è più la forma, non puoi più contare le 16 battute. A quel punto Davis fa entrare Hancock e Hancock suona in una situazione di totale disagio, in un certo senso il pezzo è suo e non c'è forma, niente accordi, come nel pezzo di Ornette Coleman, come in Free Jazz o Congeniality. Time no changes, portano il tempo e non contate, non c'è niente. Hancock sta facendo, notate il figlio di buona donna che è Davis, sta facendo il suo assolo sul nulla, non sul suo pezzo. E questa strategia, time no changes, il tempo, senza accordi e niente, è la strategia di Ornette Coleman, quello stesso Ornette Coleman su cui sputava pubblicamente Davis. Hancock suona, a un certo punto lo sentirete con un gesto di una brutalità senza pari, Davis entra e fa il tema, gli sega l'assolo, come, ma è una cosa pazzesca, tant'è che Hancock si ritira nel giro di poche note e fanno 16 battute con gli accordi. Lo ascoltiamo per intero. Vuota. Solo la misura. Notate che Hancock non suona, non ci sono gli accordi. ma con gli accordi. Quindi, sei, in cui posso contare. Mare aperto. Non c'è più struttura. Come nella musica di Ornette Coleman. C'è la forma, c'è la scatola senza gli accordi, di nuovo c'è la forma, poi non c'è la forma, poi c'è di nuovo la forma, ma insomma il pezzo ha delle strategie molteplici. Quello che a me fa rabbia, ve lo dico, chiudo su questa nota, è quando sento gli omaggi alla musica di Miles Davis, che sono accademici, no? Suonano, tutti imitano lo stile, mettono la sordina nella tromba, fanno quel tipo di atmosfera, il tipo di repertorio, però poi suonano questa musica in maniera accademica. Guardate cosa succede, anche è tutto continuamente mutevole, come se Davis avesse assorbito tutti gli stimoli del suo mondo che lo circonda e li avesse rielaborati in una forma assolutamente personale, ma con quanta molteplicità di strategie in 4 minuti di musica. E notate che il segreto di questo tipo di procedura è rimasto tale per decenni, perché per molti musicisti, finché non ci si sono messi anche di così dei musicologi a lavorarci, si sono sempre chiesti: ma come funzionano questi pezzi? Perché vedete, c'è una regola, ci sono molte regole, alcune perfino in contraddizione fra di loro, e alcune di queste rimangono, come dire, un segreto, cioè hanno qualcosa di misterioso. E in fondo il fatto che questa musica sia rimasta misteriosa e mantenga anche un carattere misterioso di indecifrabilità, secondo me è il segno della grande arte di questo gioco fra regola e libertà. Grazie.